Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Quel biscotto? Sì. Venga, questo è un biscotto come lo faceva la mia nonna. Senti com'è rugoso. Sai qual è il segreto del biscotto? No. E come lo cucini? Il biscotto, come lo cucina? Noi lo cuciniamo alitandoci sopra. Con mia nonna si mettevano qui e mio nonno e alitavano per ore e ore. Alita con me, dai. No, questa Franco Piantanini, la nostra autore, non ce la doveva fare, eh. Crozza che fa la parodia di Banderas sulla biscotto. Ma biscotto perché? Non ho mica capito. Ma c'entrano i biscotti con questa trasmissione, con la partita di ieri sera a Torino, con la Juventus che ha passato il turno, che è andata agli ottavi. Insomma, non è stata una partita esattamente indimenticabile quella della signora, è stata una partita certamente di grande pragmatismo e di grande intelligenza, ma indimenticabile no, e nemmeno col binocolo ieri sera, giocando in quella maniera, avrebbe potuto vedere i due gol di scarto che le avrebbero permesso di vincere il suo girone, di sbattere l'Atletico Madrid nel calderone dei secondi e di quelli che possono davvero trovare un ostacolo insormontabile nel prosieguo della Champions League. Intanto la Juve passa. Yeah! Posizione Bonucci, il colpo di testa non è granché, palla resta in attacco. Attenzione all'inserimento, Buffon, salvo su Koke. Yeah! Attenzione a questo tentativo dall'estate, ancora dalla distanza, la conclusione di Mario Suarez e poi Buffon che la mette in calcio d'angolo. Pareggia 0-0 con i vice campioni d'Europa ed è negli ottavi di finale della Champions League. L'obiettivo era arrivare agli ottavi, la squadra ha giocato per 60 minuti molto bene, è stata una partita vera con grande intensità, con qualche occasione da una parte e qualche dall'altra, poi dopo alla fine andare a rischiare di compromettere un passaggio per eccessiva presunzione credo sarebbe stata da stupidi, quindi invece la squadra ha gestito bene, ha cercato fino alla fine la vittoria, abbiamo tirato 2-3 volte da fuori area e poi dopo abbiamo cercato l'obiettivo per quello che contava. Ragazzi, ha meritato questo passaggio del turno e non era facile perché giocare l'ultima partita contro una squadra che come l'Atletico Madrid che è forte fisicamente, che in 5 partite di Champions ha subito solamente gol in Grecia, non era semplice, sapevamo che ci serviva un punto, abbiamo cercato di vincere, nel primo tempo abbiamo creato qualcosa di buono, abbiamo subito un paio di tiri, Buffon ha fatto una grande parata, nel secondo tempo a un certo punto giustamente abbiamo cercato di controllare la partita e evitare i rischi inutili. Si controllare la partita, dice Allegri, controllare l'Atletico Madrid che controllava la Juventus, controllava il risultato, insomma un controllo continuo che ha portato a questo 0-0 che ha accontentato tutte e due, l'Atletico Madrid perché passa come prima nel girone, la Juventus perché passa e non finisce seppellita dalla, come l'anno scorso, seppellita dalla improbabile neve turca. Era importante centrare questo risultato e poi si vedrà. Così come si vedrà questa sera anche per la Roma, ricordiamo che la Roma è padrona del suo destino, quindi la cosa migliore sarebbe provare a battere il Manchester City senza stare troppo ad ascoltare quello che succede a Monaco tra il Bayern e il CSKA, però ci sono altre combinazioni in caso di doppio pareggio, comunque la Roma passerebbe il turno, il doppio pareggio sui due campi. In caso di vittoria del Bayern sul CSKA di Mosca, alla Roma potrebbe andare bene lo 0-0. Se vince il CSKA, vabbè, a quel punto bisogna battere la squadra degli sceicchi. Adesso sto leggendo varie indiscrezioni così, secondo cui il Manchester City, che ricordiamo potrebbe essere eliminato al primo turno per il terzo anno su 4 sulle ultime 4 partecipazioni, che l'unica volta che ha passato il turno l'anno scorso è finito comunque fuori agli ottavi, che però non si arrende ad una dimensione europea al momento inesistente nonostante tanti denari spesi. Sto leggendo che potrebbe essere l'unico club al mondo in grado di mettere sul tavolo 200 milioni per strappare Messi al Barcellona e pagando un ingaggio stellare, 25 milioni l'anno, a Messi stesso. Intanto non so quanti tifosi giallorossi siano contenti delle previsioni di Mister Pallotta, che questa mattina dopo l'incontro con il sindaco Marino si è lasciato andare ad un pronostico. Quale pronostico? Roma batte City 3-1, tripletta di Francesco Totti. Vabbè, sentiamo il traffico, poi arriva Pardo e poi parliamo insieme, a partire dalla Juventus. Ma quale biscotto? 800 24 00 24, numero verde. Franco Piantarini, del nostro autore, Gianmarco Ferronati in regia, Daniele Buonamici in redazione. A dopo. Una curiosità: nessun cambio né da parte vostra né da parte dell'Atletico. La partita ormai si è incanalata con il suo tram tram, e andare a fare dei cambi in quel momento lì e rompere gli equilibri credo che non ce ne sarebbe stato bisogno. Tutti convocati. Evitare il sorteggio. Intanto siamo arrivati al sorteggio, ora vediamo cosa ci capita, prendiamo, anche perché possiamo cambiare. La Champions è una competizione strana, perché a febbraio sarà sicuramente un'altra Champions, perché bisogna arrivarci in una buona condizione fisica e mentale e soprattutto avere tutta la rosa a disposizione. Per quanto riguarda le squadre, credo che Bayern, Real Madrid, Barcellona e Chelsea sono le quattro squadre che sicuramente sono un gradino sopra le altre, però aspetteremo il sorteggio e vedremo cosa verrà fuori. Oggi ragazzi cucinerò per voi dei bei biscottini semplici come non mai, che si preparano in soli 10 minuti esclusa la cottura. I biscotti che vi sto per proporre vanno bene da preparare anche all'ultimo momento, magari abbiamo degli ospiti dopo cena e non sappiamo che cosa offrire loro, ma questi biscottini sono anche indicatissimi per chi è alle prime armi in cucina e ha tanta voglia di imparare. Ma bando alle ciance, andiamo a vedere la ricetta. Ma quale biscotto? Pierluigi Pardo non come è al telefono, ma qui. Visto proprio che il telefono. No, il telefono è la tua voce, la tua il casa. Telefono, la tua voce. Ma biscotto? Tu dici biscotto? No, io no. Lo 0-0 è rotondo come un biscotto, anzi due, ordinatamente disposti su un vassoio d'erba. Nessuno si deve scandalizzare. Mezza partita è stata giocata più o meno sul serio, l'altra mezza è stata simulata con dignità. Farsi del male non conveniva a nessuno, non è che l'ha scritto. Crosetti. Bravo. No, ma. Maurizio Crosetti, ciao. Ah, eccolo. Eccolo, bello il vassoio d'erba, però, una bella idea. Bella idea. Devo fare l'antidoping prima di scrivere. Meglio di no, lascia stare che oggi c'è la stana, cioè. Sì, oggi. Leggiamo cose pazzesche su Carolina Costner, non si può neanche innamorarsi così. L'amore ormai è l'amore che perde. Dignità, ecco. Dignità mi sembra la parola chiave, cioè rispetto ad altre situazioni ed altre storie della storia del calcio, mi sembra che ieri ci sia stato il tentativo di giocarsela, poi a un certo punto si è capito che non valeva la candela il gioco, no? Ma sì, diciamo che mezza partita l'hanno giocata davvero e l'altra mezza non aveva senso continuare a giocarla in quel modo, perché tanto la Juve aveva capito sin dall'inizio che non avrebbe battuto l'Atletico con due gol di scarto, ma che avrebbe rischiato di prenderlo il gol eventualmente esponendosi troppo. All'Atletico tutto questo stava bene, c'è un campionato, anzi due, da gestire e da vivere, le posizioni del girone erano piuttosto consolidate, c'è la convergenza di interessi, sì, quella che mi ha biscotto perché fa sorridere, però insomma è normale che questo accada, non poteva andare diversamente. Cioè, ma tu non ti saresti aspettato una Juventus quantomeno capace di provarci, Pierluigi? Cioè, sì. Quantomeno con la voglia di provarci all'inizio, magari rischiando un pizzico per non rischiare. Guarda, magari poi dopo l'ho pronosticato 1-1, perché pensavo una partita comunque con uno sviluppo un po' più... E forse sarebbe stato 1-1 se l'Atletico avesse dato il gol, se non ci fosse stato quel buffon così reattivo nel primo tempo. sinceramente io non ci vedo nulla di clamoroso, se non più di altre volte. Insomma, mi sembra che dal punto di vista della convenienza non c'è discussione. Qui ci sono 12 milioni di euro che ballano, c'è la possibilità concreta comunque di trovare gli avversari giocabili, perché è vero che è meglio arrivare primi che secondi, però insomma col Monaco la Juve se la gioca, forse addirittura è quasi favorita. Col Porto secondo me se la gioca almeno alla pari, l'esperienza del Borussia Dortmund anche. Col Borussia Dortmund anche, quindi poi alla fine vedremo il sorteggio. La cosa più importante era passare il turno, col senno di poi. Diciamo che è stato sfortunato l'Olympiacos, che ha avuto praticamente la sfortuna, tra virgolette, di avere come calendario l'ultima partita col Malmo già qualificato e di trovarsi in questo tipo di situazione. Magari avesse giocato col Malmo la quinta giornata e con la Juve, con l'Atletico Madrid, magari le cose andavano diversamente. Però poi, fa parte della vita. Peccato originale Maurizio è stato quel rigore sbagliato da Vidal, no? Ieri la normale conseguenza, agli ottavi la Juventus magari dovrà espiare, magari no, vediamo quanta fortuna ha. Quel rigore, e direi complessivamente la gestione della partita di Atene. Anche Madrid, la Juve non era stata messa sotto, anzi nel primo tempo ha giocato meglio dell'Atletico, dopodiché un'occasione la puoi concedere e quei campioni di Spagna puoi anche perdere in casa loro. Direi che non si doveva giocare in quel modo ad Atene, e certo sarebbe stato meglio non sbagliare quel rigore, però insomma, quando ci sono stati i sorteggi quel giorno abbiamo letto il gruppo e tutti abbiamo pensato, vabbè, l'Atletico è più forte, aveva quasi vinto la Champions, campione di Spagna davanti a Barcellona e Real, tutti abbiamo pensato, beh, la Juve arriverà seconda, e così, sì, così è andata. Insomma. Sì, ma anche se era un altro Atletico quello che ha vinto. Era un altro Atletico, sì. si poteva vincere il girone, questo non c'è dubbio. Paradossalmente secondo me l'Atletico oggi è più forte dell'Atletico della partita d'andata, no? Se guardiamo il rendimento in campionato, sì, e anche come aveva cominciato la Champions League l'Atletico con la sconfitta ad Atene, infatti ricordate quell'Atletico Madrid-Juve come era stato, mi ricordo io avevo anche discusso con te Carlo, no? Nel senso che io ero un po' più morbido sulla prestazione della Juve all'andata a Madrid. Secondo me ha buttato via un'occasione a Madrid. Sì, ha buttato via un'occasione, ma complessivamente insomma non ha giocato una partita non è stata sottomessa dall'Atletico Madrid, lo sappiamo bene, però ci fu molta delusione proprio perché in quel momento l'Atletico Madrid era una squadra che faticava parecchio in campionato e che aveva perso la prima partita in Champions League. Insomma, alla fine passano secondo me le due squadre migliori del girone. La Juve ha mostrato nella prima parte del girone difetti vecchi europei, le ultime tre partite lanciano dei segnali incoraggianti per il futuro, poi dipenderà molto dal sorteggio. Perché questo è interessante, secondo voi, lo chiedo ad entrambi, per Luigi e Maurizio Crosetti, è una squadra in evoluzione, in crescita, questa Juventus rispetto al recente passato? Poi dipende sempre dal parametro, da dove vuoi arrivare, eccetera, ma vi sembra una squadra in crescita, in evoluzione? A me pare certamente di sì. Intanto è una squadra in cambiamento tattico, ormai è avvenuto e del tutto metabolizzato quasi. È una squadra che probabilmente riuscirà anche a togliersi di dosso un po' di paura europea, come dice Pierluigi giustamente. In queste ultime tre partite si è visto anche un atteggiamento migliore, diverso. Se si sblocca anche a livello mentale e trova una quadratura acquisita, insomma, tattica in campo, beh, insomma, è chiaro che dovrebbe tornare a segnare un po' di più. Questo sì. C'è stata nell'ultima partita un po' un'involuzione per quanto riguarda il gol, continua a mancare la punta che garantisce top gol, anche se per carità Tevez è capocannoniere, l'anno scorso Tevez e Llorente hanno segnato molto. Llorente mi sembra un po' involuto quest'anno, ancora non abbiamo visto il miglior Llorente e nemmeno il miglior Vidal, e Pirlo fa qualche po' anche lui, però insomma, al di là di tutto mi pare che la Juve stia segnando un po' poco, questo sì. Sì, segna un po' poco, e secondo me rispetto ai picchi di condizione fisica che si erano visti per esempio contro la Lazio, nelle ultime partite la squadra mi sembra un pochino meno brillante dal punto di vista appunto della condizione. Però insomma, aver portato a casa una vittoria faticosissima nel derby, il pareggio a Firenze e la qualificazione in Champions League senza fare tre partite molto brillanti mi sembra positivo. Perché Morata non gioca? Ieri scaldato, poi niente. Non gioca perché Allegri preferisce in questo momento la garanzia dell'esperienza di Llorente, pur sapendo che Morata è un giocatore probabilmente superiore come peso specifico, come qualità e come potenzialità, no? Anche Simeone ha detto ha un futuro enorme, ha detto alla vigilia, riferendosi a Morata. Il presente forse è un po' meno enorme e soprattutto forse può essere un po' più rischioso. Sono giocatori molto diversi, perché Morata va in velocità, pensa alla porta e a se stesso, è più bomber in questo, e in prospettiva può servire anche di più alla Juve. Però Llorente è un giocatore che di sponda, di fatica non si nega mai. è un pochino opaco, sì, nelle ultime partite anche lui patisce probabilmente un calo di forma generale, però Allegri preferisce lui perché sa che certi meccanismi sono più automatici. Sì. Con una battuta potremmo dire che ieri non è entrato per paura che potesse segnare interrompere sì, quell'idillio, sì. Ovviamente è una battuta, avrebbe, anche se avrebbe frantumato i biscotti, appunto, no, anche se in briciole. Quella se vuoi è l'unica vera sporcatura, no, dal punto, sul piano formale di una partita, ripeto, dignitosa, perché poi, cioè, il fatto, insomma, di non aver fatto, ragazzi, non siamo ipocriti, al 70esimo di una partita del genere, quando è evidente che 2-0 non vinci più, ma che devi fare? Devi rischiare per uno spirito decubertiano che ti può portare l'arbitro a un certo punto ha dato un minuto per caso, esatto, sì, sì. Zero sostituzioni, io non mi ricordo la partita, no, ecco, questo appunto, dicevo, questa è una sporcatura abbastanza formale, diciamo, della dignità del biscotto, perché una partita senza cambi, insomma, filosoficamente una partita in cui nessuno dei due cambia vuol dire che va bene così, insomma, no? Cioè, più chiaro di questo lo dice la parola stessa, non ci sono cambi perché non c'è niente da cambiare, perché l'ordine costituito, lo status quo è perfetto. Intanto stasera invece, Maurizio Cosetti, poi ti saluto, la Roma vince 3-1 perché l'ha detto Pallotta, tripletta di Totti e tutti a toccarsi nelle parti più nascoste. Si toccano materie organiche e inorganiche, come si dice in questi casi. Beh, speriamo, accidenti, sì, sarebbe molto importante, è pur sempre l'anno dei mondiali, sarebbe bello poter portare due squadre in Champions agli ottavi e magari 4 su 4, insomma, all'Europa League, manca solo il Toro. Sarebbe un segnale un pochino incoraggiante in un'annata piuttosto cupa, insomma, a livello internazionale abbiamo preso un bel po' di sberle, stiamo mettendo il fissang sulle guance arrossate, siamo guarda, visto che quella è la pomata di Maurizio, siamo più consapevoli dei nostri limiti rispetto al passato, io ce l'ho abbastanza chiara la diagnosi, cioè noi siamo peggiorati, non siamo quelli degli anni scorsi, per un po' di anni abbiamo continuato a fare gli snob, a pensare per esempio che l'Europa League fosse semplicemente un fastidio e a illuderci che tutto fosse come negli anni 90, gli anni d'oro del grande Milan, come canta Jake La Furia, prima ancora Pezzali, il grande Real, oggi non è così, oggi la nostra dimensione è poter fare bene in Champions e poter fare molto bene e provare a vincere l'Europa League, questa è la dimensione del calcio italiano, quindi poi dal punto di vista del ranking, come abbiamo spiegato ieri con Capuano, che ha fatto un pezzo perfetto sul panorama, su questo, il Torino è la partita chiave, perché più della Roma, più della Juve ieri, nel senso che se il Torino passa il turno, noi continuiamo ad avere un grande ranking quest'anno, mentre la Roma io continuo ad avere una mamma, tra l'altro, mi importa nemmeno all'UEFA, ma dico, se il Torino passa il turno io continuo ad avere una mamma. Ah, sì? Ho rischiato di perdere la sera del derby, e sì, è andata così. Ah, beh, così. Lo so. Però, motivo in più per tifare granata. Fatelo, se non lo fate per Pulice e Graziani, fatelo per la signora Grosetti. Fatelo per la signora Grosetti, che mi sembra un motivo anche migliore del ranking UEFA, di cui a me sinceramente continua a non però poi aiuta, granché. Non mi eccita, sulla C di che ho cominciato a temere, però invece no, un granché. Ma sì, però insomma, il ranking UEFA a me non eccita, non so cosa dire. No, ma certo, ma non è che a me, diciamo, ci sono cose che mi accennano di più, però però comunque aiuta, nel senso che nel momento nel quale tu hai squadre, certo, messe meglio, sistemate meglio, a quel punto poi è più facile anche tornare a vincere. Oggi la cosa brutta del calcio internazionale di oggi, l'unica cosa veramente brutta, è che contrariamente a quello che succede per esempio nell'NBA, dove c'è il draft che è un meccanismo per riequilibrare le cose, che tu conosci molto meglio di me, nel calcio internazionale di oggi più vinci e più continuerai a vincere, cioè la forchetta, la forbice fra i grandi e i piccoli si allarga sempre di più, tant'è vero che ormai le squadre che possono vincere la Champions League o che possono dominare una stagione sono 4-5, mentre chiaramente 10 anni fa, 15 anni fa la situazione in qualche modo era diversa, certo. E quindi bisogna far girare la ruota, che abbiamo fatto girare troppo in negativo. Ciao Maurizio, dimmi. La Roma possono essere il nuovo Borussia Dortmund di 2 anni fa, dai, se ce l'hanno fatta loro possiamo provarci anche noi, certo. Siamo con una botta d'ottimismo, dai. Grazie Mau. Grazie Maurizio Crosetti. Allora, borsa, poi torniamo 800240024. Se volete e dovete dire la vostra. Adesso comincia la Champions, no? Adesso comincia la verdadera Champions, come io parlo, no? Entonces, se qualcuno viene bien, dai. Tutti convocati. Ecco che torniamo, mi sono perso Pardo, ma letteralmente. Eccolo qui che sta rientrando con passo felpatissimo. Dove eri? ti ho perso. Stavo parlando. Stavi parlando. Pubbliche relazioni, redazioni. Amici, eh? Eccoci. Alvise, buongiorno, provincia di Venezia. Sì. Buongiorno a tutti, grazie buongiorno. Per la convocazione. Dica. Voglio fare una riflessione e condividerla con voi. Si parla sempre troppo poco della società udinese, che secondo me è una delle migliori società italiane nella, proprio nella gestione di una società calcistica, anche perché penso che negli ultimi 10 anni abbia dimostrato di aver scoperto tantissimi giocatori, averli lanciati praticamente a costo quasi zero, averli rivenduti a prezzi molto alti. Quindi secondo me è anche i migliori scout italiani. E tra l'altro è una delle poche società che se ne parla sempre poco che sta costruendo il secondo forse stadio, il terzo in Italia di proprietà. Sì. Tutte cose che abbiamo diciamo. No, ma guarda, no, ma io vengo tra l'altro da una puntata di Chitaka in cui avevo Stramaccioni ospite, in cui abbiamo parlato anche di questo, oltre che di molte altre cose. In generale, lunedì abbiamo parlato a lungo di questo. Tu hai commentato l'Udinese, la vittoria dell'Udinese a San Siro. Abbiamo fatto anche un'analisi su quella che è l'Udinese di quest'anno. Non mi sembra che ci clamoroso. Sia una grande. No, ma guarda, io ti dico questa associo questo commento a tutti quelli che scrivono: si parla poco del Genoa, si parla poco della Samp, si parla poco del. È vero. Che volete che vi... È vero, c'è un discorso che è legato alla quantità di tifosi che esiste in Italia, che fa sì che si parli di più, nel bene o nel male, delle 5 squadre che hanno dei bacini di utenza nettamente superiori alle altre: Juve, Inter, Milan, Napoli e un pochino meno la Roma. Queste sono le 5 società top. Qualsiasi rilevazione demoscopica sui diritti televisivi, sugli ascolti televisivi di Sky e di Mediaset va in questa direzione. Il che non vuol dire essere disonesti intellettualmente sarebbe non riconoscere alle società medie quello che fanno di buono, ma questo credo che non lo faccia nessuno. L'Udinese lo sappiamo, lo diciamo da anni, è un modello straordinario. È chiaro che la stampa nazionale, insomma la Gazzetta dello Sport, è difficile, la Gazzetta, il Corriere, Tutto Sport, è difficile che apra con Bruno Fernandes, ma non è cattiveria. Io capisco che possa sembrare, però insomma ciò che fa notizia, ciò che ha un risalto è ciò che interessa al maggior numero possibile di lettori, di ascoltatori, di telespettatori. La dura legge del gol. Sì, appunto, però sull'Udinese nello specifico sono d'accordissimo, società veramente all'avanguardia da mille punti di vista, negli scout, tanti anni che ottiene risultati eccezionali. Poi un concetto strano è non se ne parla, ma che cosa vuol dire? Cioè, a parte il fatto che in questo programma specificamente ognuno può, è fatto apposta perché ognuno può dire la sua. No, poi c'è pure quello ma che poi ti non dice. Se ne parla, cioè non è che non parlarne una qualche certo. forma di diminuzione. Cioè, ma assolutamente, anche perché poi insomma, se devi parlare di Inter o di Milan, come ne stiamo parlando in questo periodo, forse è meglio da un certo punto di vista non parlarne, no? Nel senso che. Poi ci sono quelli che fanno silenzio stampa. Esatto, questo lo sai che è un mio cruccio totale, perché io credo che veramente silenzio stampa non serva a nulla, può servire come scaramanzia, può servire. No, ma che poi non è che punisci la stampa, punisci i tifosi, i giornalisti, ma alla fine i giornalisti chi se ne frega, punisci i tifosi che magari avrebbero voglia di sentire dei punti di vista, che avrebbero voglia di ascoltare delle opinioni dei propri giocatori, insomma è un fatto di disponibilità. Io ricordo sempre che in Spagna, che è un paese dove i giocatori parlano a mezzanotte collegati al telefono con le radio, mi pare che qualcosa vincano, quindi non c'è una proporzionalità diretta fra il numero di silenzi stampa che fai e i trofei che alzi. No, questo purtroppo, di sicuro. Perché sennò sarebbe semplicissimo. Allora. Ma visto che insomma hai visto Stramaccioni a Tiki Taka l'altro giorno, ti ha parlato anche dello stadio. Sì, del, sì, abbiamo fatto delle immagini. Sentiamolo, cioè, no? Sentiamolo. Questa è una società che guarda sempre alla prospettiva, guarda sempre in futuro. E questo è il fatto di avere, credo sia l'unica società d'Italia ad avere stadio, sede e campi di allenamento tutti nella stessa location. Adesso questo stadio è ovviamente l'orgoglio della famiglia Pozzo, l'orgoglio di tutti i friulani, perché sta nascendo un gioiello e credo che dalla prossima stagione sarà completato, ma è fantastico. Questo era Stramaccioni. Anche le immagini della saletta, perché c'è tutta una serie di iniziative. Devo dire che in questo le società, quelle grandi, quelle medie come dimensione, però che cercano di fare il salto di qualità, fanno tutte la stessa cosa, cioè cercano di migliorare l'esperienza allo stadio in queste aree ospitalità che diventano bellissime, dove si mangia, si passa il pomeriggio intero o la serata intera, insomma. E l'Udinese da questo punto di vista, chiaramente con lo stadio di proprietà, prova a portarsi avanti. Ci scrive Sara che l'Udinese fa business, non calcio, tanto è che non ha mai fatto il salto di qualità, che alleggia. A molti non piace il modello dell'Udinese. E non allunga mai, ma è anche lì, è lo stesso discorso. Guardi, con una battuta ti vengo a dire che è lo stesso motivo per il quale poi le televisioni nazionali o i giornali nazionali ne parlano fino a un certo punto, che l'Udinese ha quelle risorse, ha quel bacino d'utenza, per cui quando ha avuto la possibilità di centrare dei grandi traguardi come il quarto posto, giocarsi i preliminari di Champions League, un anno ha venduto Sanchez, sì. Ha giocato contro l'Arsenal e lo Sporting Braga, con lo Sporting ovviamente qualcosa in più uno se lo aspettava, però alla fine monetizza, la verità è che monetizza e con quei soldi di quelle cessioni lì va avanti per altri 10 anni e costruisce un calcio di medio livello. È il problema di prima, quello che dicevo prima, è che ormai il calcio è nelle mani di 10, 15, 20 club in Europa che hanno la forza essenzialmente dei tifosi. Oggi la quantità di tifosi pronti a spendere, pronti a guardare le partite sulla Pay TV è decisiva, molto più di 20 anni fa. Certo. L'altra sera c'era Verona Samp. Certo. Due squadre che hanno vinto il campionato negli anni 80 e all'inizio del 90. E oggi pensate quanto è difficile, per non dire impossibile, che una squadra di fascia media possa vincere il campionato. Perché non basta avere un bravo allenatore, trovare 4-5 buoni acquisti. Comunque il punto di partenza e la distanza fra le grandissime e le medie è troppo ormai, grande. Ed è un peccato. Ormai è un peccato. L'Europa ha scavato questo solco, ma accade in tutti i campionati. Sì, sì, Luigi, sì. Cioè in tutti i campionati hai due o tre corazzate e le altre si arrangiano. Se tu sei senza in Spagna si parli tutto sto granché del Valladolid, ma che piuttosto scherzi, che del zero, Lecce, no? Zero. E allora, basta prendere un giornale spagnolo, ma questo è un fatto. È un fatto che può dar fastidio, ma che in qualche modo è anche democratico, nel senso che poi alla fine evidentemente si segue la maggiore quantità di ascolti, la maggiore quantità di lettori, ed è anche un modo in fondo alla fine per far felice il maggior numero di persone. In questo diverso è stagno dell'Europa, quanto vale la Juventus? Scusami? Quanto vale la Juventus nello stadio europeo, in prospettiva? È chiaro che è stata condizionata moltissimo da quello che è successo l'anno scorso, dal fatto che il passaggio del turno in questo girone era un obiettivo minimo. Certo. In Europa adesso potremo vedere forse la vera dimensione, qual è? Potremmo scoprire dagli ottavi in poi qual è la vera dimensione della Juventus in Europa. Guarda, quanto vale? Dipende molto anche da chi incrocia, ma sì, come stavolta io credo che il sorteggio del 15 sarà un sorteggio importantissimo, perché è evidente che giocare con Real Madrid non è come giocare col Monaco. Io penso ci siano due o tre squadre ingiocabili per la Juve, o comunque molto molto difficili. Real, Chelsea e Bayern. Sì, Real, Bayern, anche Chelsea, eventualmente Barcellona. Vedremo stasera in Barcellona, Paris Saint Germain, chi passerà il turno. Il resto, sul resto, secondo me la Juve se la gioca. La Juve se la gioca e vista al contrario, secondo me può essere pure una mina vagante per chi è arrivato prima dall'altra parte. Cioè, io non credo che siamo tutti felicissimi eventualmente di incrociare la Juve, e facendo tutti gli scongiuri, lo stesso discorso varrebbe per la Roma se passasse il turno stasera. Uh-huh. Credo che, e se è il City, è la stessa cosa. Cioè, se capa sarebbe sorprendente, ma insomma, se passa una fra Roma e City, sicuramente quella è una di quelle squadre che le prime degli altri gironi vogliono evitare. Sì, intanto chi non passa né come prima né come seconda il Liverpool, che è stata la notizia di questa prima fase. Sì, no? Sì, sensazione. Ieri sera ho visto la notizia aspettiamo domani, perché se stasera le cose vanno in un certo modo, la notizia secondo me è un'altra. Sì, di un'altra squadra che gioca stasera a Roma, e non è la Roma, che ha un budget, una forza economica incredibile, che se non dovesse passare il turno, cioè pensare che la Roma stasera se la gioca alla pari con anche CSKA, ovviamente l'unica squadra del mondo che può prendere Messi. Capito? Scrivono, ecco, oggi. Ma è vero, insomma, se la vedi così il bicchiere è mezzo pieno. Ci scrivono: Andanovic, basta, Isla, Benatia, Inler, Pereira, Samoa, Montari, Sanchez, Mauri, Iaquinta, ecco la squadra scoperta dai Pozzo. Ci scrive Stefano da Udine, ed è evidente, è indiscutibile, c'è una qualità diffusa negli scout dell'Udinese mostruosa. Poi è chiaro che qualche decisione per monetizzare sarà presa in questi anni. Mi chiedono perché la Fiorentina non viene trasmessa in chiaro. Sono decisioni di marketing, quindi saluto Jerry, ovviamente non dipende da me, insomma, vorrei poterti rispondere ma non lo so neanche io. Domani sera c'è Napoli Slovan su Italia 1. Sono valutazioni di marketing legate al numero di abbonamenti e agli ascolti, proprio non so veramente cosa risponderti, non è che non ti voglio rispondere. Dicevamo della partita di stasera, invece, dicevamo del disastro del Liverpool, che è una squadra che si è fermata alla fine dello scorso campionato, persa in maniera più incredibile, che poi non è riuscita a metabolizzare Balotelli, che a questo punto sembra una squadra inesistente, non puoi finire fuori in quel girone lasciando passare Basilea e perdendo quella, cioè pareggiando quella partita in casa. Ottima... Dicevo, la notizia del martedì è stata certamente questa. È un'ottima notizia per chi commenta l'Europa League, insomma, direi tutto, nel senso che il Liverpool in Europa League diventa un'ulteriore bellezza da poterci godere in una competizione che cresce tanto. È una stagione ridicola. Io penso che in quello scivolone di Gerrard l'anno scorso, come dicevo ieri, sia infranta proprio un'opportunità unica. Sì, unica. Non ti rialzi forse da una cosa del genere. Beh, il Liverpool è più debole del Chelsea, il Liverpool è più debole del Manchester City, per me è più debole anche del Manchester United e anche dell'Arsenal, questa è la mia idea. Squadra che ha delle grandi qualità davanti, che l'anno scorso nella seconda parte della stagione aveva trovato un'alchimia in un anno strano, perché la Premier League dell'anno scorso è finita con un punteggio abbastanza basso delle prime, è stato un campionato molto livellato in cui nessuno è riuscito a prendere, sembrava Chapanò, sì, a un certo punto, e il Liverpool si è buttato via con quello scivolone in Liverpool-Chelsea dopo che il Chelsea a sua volta si era buttato via. E quindi, però quest'anno malissimo. Beh, c'è anche il fattore Balotelli, perché comunque un giocatore pagato così con quello stipendio lì qualcosa doveva fare, insomma, adesso non è solo colpa sua ovviamente, però diciamo che lui il suo mattone bello robusto doveva portarlo, non l'ha portato. Tutti convocati. Luigi Pardo, prima di Marco da provincia di Udine, Maurizio da Modena, qualcosa di incredibile invece, sempre allargando il discorso, lo sta facendo il Real Madrid. Non da ieri sera, quando ha inchiostrato la 19ª vittoria consecutiva nelle varie competizioni in questa stagione, ma davvero sembra una squadra irresistibile, inarrestabile come Cristiano Ronaldo, che 57 gol in 57 partite di Champions League, 282 gol in 268 partite con il Real Madrid. Sono numeri irreali questi. Sì, è una cosa incredibile. Il Real ha trovato finalmente la quadra definitiva. Definitiva, dici? Secondo me sì. Ha coinciso secondo me anche con un po' di calo e un po' di rimescolamento della tecnico-tattico societario del Barcellona, no? Le due fasi incidono probabilmente per Mourinho con il Messi di un paio d'anni fa, con il Barcellona di un paio d'anni fa era più difficile, su questo non ci sono dubbi, però è anche vero che un po' di queste certezze del Barcellona le ha tolte proprio Ancelotti, che ha fatto delle cose leggendarie, quindi è difficile capire quanto la crisi, la confusione, la minore energia del Barcellona nell'ultimo anno e mezzo sia dovuta a un calo fisiologico del Barça e quanto sia invece dovuta al fatto che il Real è cresciuto tutte e due le cose, no? Per il motivo per il quale oggi consideriamo il Barcellona in ritardo rispetto per esempio al Bayern o al Real Madrid, anche se poi magari tra sei mesi vincerà la Champions. Sarà la Champions, sarà una competizione strana. Certamente. Però sicuramente come valori di punta è qualcosa in meno. No, Ancelotti è un mito, Ancelotti è veramente un uomo, un allenatore che va celebrato sempre, continuamente, nonostante quest'anno non sia ancora venuto a Tiki-Taka, quindi sai quanto mi costa dirlo, sto scherzando, però insomma spero che lo avremo presto. È un uomo che ha dentro di sé i segni di una cultura, non voglio fare un discorso pippone filosofico, ma di una cultura contadina, di una cultura del lavoro, di una umanità incredibile. Tutti i giocatori con cui parli ti parlano di questo, e questa cosa qui fa sì che poi i giocatori si gettino nel fuoco per lui, perché gli vogliono bene, oltre che perché è un grande allenatore. E poi appunto questo non avere la mascella in fuori, questo non avere l'aggressività sempre e comunque, che qualcuno in certi momenti ha scambiato per debolezza, in realtà non è debolezza. Cioè, Ancelotti sotto due, ecco, proprio belli tosti, solo che è anche un uomo morbido. Sì. Marco o Maurizio? Marco, perché per priorità. Marco, buongiorno. Convocato. Niente, io volevo rafforzare un attimo il discorso delle piccole squadre. Io sono di Udine, che ovviamente sempre ti fa udinese come prima squadra. Però devo dire una cosa, che penso che siano molto i giornali, come dicevate voi, che non parlano molto delle piccole squadre, perché io viaggio molto per lavoro tutto il mondo, e devo dire che negli ultimi 10-15 anni ogni dogana che faccio mi chiedono dell'Udinese, ma da Sudafrica a Indonesia, dovunque arrivi, certo. Do il passaporto Marco da Udine, di Natale, amoroso, Birof, ci conoscono più all'estero che in Italia. Io penso che spesso e volentieri è colpa nostra, di noi italiani, di non valorizzare le nostre squadre. Dopo, i Pozzo sono una famiglia che vuole fare soldi, e non vuole, no, no, e non hanno, vuole andare nei debiti. Hanno anche ragione. Anche perché il bacino d'utenza di Udine, il Friuli, è 1,5 milioni di abitanti, è come una piccola città, per cui non possiamo pretendere tanto. Accontentiamoci di quello che abbiamo a Udine, che vediamo ogni tanto qualche bel calcio, lo vediamo anche noi. Beh, l'altra sera Stramaccioni sottolineava i 1,000 a San Siro, no? Che comunque sono un centesimo della popolazione di Udine, quindi fa un certo effetto vedere che uno su 100 va in trasferta, mettendoci dentro anche i bambini. Adesso non so esattamente quanti abitanti abbia Udine, ma siamo in quell'ordine di grandezza. In generale sono d'accordo, cioè che Di Natale sia una leggenda che fa il giro del mondo, che l'Udinese, che giocò una partita fra l'altro straordinaria all'Emirates all'andata contro l'Arsenal e che per 2 anni consecutivi è arrivata quarta, abbia fatto le imprese leggendarie, non ci sono dubbi. Io credo che insomma a me non piace essere retorico e dirvi le cose così buoniste. Prendete la Gazzetta dello Sport, che è un giornale venduto in tutta Italia, che poi c'ha le varie costole, ovviamente c'è la Gazzetta di Roma, ma è complessivamente un giornale che nasce dalle tre grandi squadre del nord. Prendete Tutto Sport, che ha comunque come focus la Juve, il Torino, la Samp e il Genoa subito dopo. Prendete il Corriere dello Sport, che è un giornale che viene venduto, è romacentrico, poi c'ha la costola di Stadio, che invece è più Bologna e Firenze. Insomma, ognuno ha il suo target. Può essere brutto, può essere bello, ma è così. Ripeto, la disonestà intellettuale è quando tu parli sempre bene di una squadra a prescindere, sempre male di una squadra a prescindere. Questa secondo me è disonestà intellettuale. Certo. Ma se tu fai un giornale che per il 50% fai un programma televisivo, una trasmissione radiofonica che per il 60% viene ascoltata da tifosi di 5 squadre, se non di più, è chiaro che ti concentrerai di più su quello. Da questo punto di vista, però, e approfitto del fatto di aver avuto Stramaccioni l'altro giorno, io credo che gli addetti stampa e le società medio piccole debbano capire che tutte le opportunità che gli vengono concesse dal punto di vista mediatico perché non, probabilmente la gente non si rende conto, ma questo qui ci parliamo addosso io e te, non si rende conto di quanto sia difficile parlare con i protagonisti del nostro calcio, perché è veramente un'impresa complicata, molto più semplice stare al telefono e parlare con un ministro. A me l'altro giorno uno mi ha scritto: perché hai invitato Stramaccioni che ha battuto l'Inter, perché lavori a Mediaset, allora non hai invitato Gasperini? Ma no, io ho invitato anche Gasperini. Io il weekend scorso ho preso 27-2 di picche, era tutto c'ho i messaggi, ma è complicatissimo incastrare, è veramente complicatissimo. Per carità, è il lavoro più bello del mondo, nessuno si lamenta, però questo proprio come informazione di servizio ve la diamo. Dietro la presenza al telefono a tutti i convocati o in un salotto televisivo di un ospite c'è un lavoro di telefonate, di rapporti, dai ti prego, domani non puoi, vabbè prova settimana prossima, non ti dimenticare, magari fra un mese vieni, no questo non parla perché deve parlare con l'altro, cioè è così. È non sono i politici che vedete in 57 talk show che hanno interesse ad andare in televisione, perché più si fanno vedere e più possono comunicare. Però, ed essere votati. Dovrebbe essere un discorso abbastanza parallelo quello dei protagonisti. Beh, l'altra sera nella prima parte di trasmissione ne avevamo 900.000 persone collegate a mezzanotte, certo, che hanno visto che l'Udinese ha fatto lo stadio senza barriere, che c'ha, chiaro. Maurizio Modena, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ciao. Io mi trovo un po' in controcorrente con i tifosi dell'Udinese, perché io tifoso dell'Inter mi interessa esclusivamente che la mia squadra abbia dei campioni all'interno. Non mi interessa quanti soldi può spendere l'ex Moratti, se ne ha spesi tanti, 1,000 miliardi o meno, voglio i campioni, e questa è l'unica cosa che interessa per giocare ad altissimo livello. Questo rimane uno sport per i tifosi e non una maniera per incassare dei soldi per i presidenti. Questo è fuori dubbio. Bisognerebbe far combaciare un po' le due cose, perché sì, lo so, ormai anche però, l'epoca dei mecenati è agli sgoccioli, almeno da noi, no? Sì, e soprattutto poi ci sono stati esempi di società che attraverso dei risultati positivi sono poi arrivati al fallimento. Penso al Chievo, che andò in Europa e poi è retrocesso quell'anno lì. Tante volte ci sono delle situazioni in cui i presidenti, ovviamente delle società medio piccole, forse preferiscono una normalità, uno status quo di risultati discreti, piuttosto che l'ebbrezza, l'adrenalina di qualcosa che però li porta a dover fare un investimento superiore, certo, che può essere anche un boomerang, perché se investi bene chiaramente cresci ancora, se investi male. Questo, torniamo al discorso filosofico del calcio di oggi. oggi, che il problema del calcio di oggi è questo, che esiste troppa distanza fra le grandi e le piccole, e quindi il Torino che si qualifica all'Europa League dell'anno scorso, al di là di tutto, anche se avesse tenuto Immobile e Cerci, era difficile potersi arrivare in Champions quest'anno. Certo, e quindi alla fine il presidente dice: sai che c'è? Io monetizzo e cerco di garantire altri 10 anni di Serie A tranquilla. Ciao Pier, forse rimango, poi vediamo. Vabbè, adesso vediamo. A sorpresa, Bet Corner GR, poi di nuovo qui. Quote e pronostici. Prova a sognare la Roma che dopo essersi complicata maledettamente la vita con il pari di Mosca chiede strada al Manchester City nelle match di questa sera allo Stadio Olimpico. Vediamo dunque le quote SNAI per questa partita. L'1, la vittoria dei giallorossi, è quotata a 2,40, l'X è a 3,50, il 2 invece, con il successo del City, è quotato 2,80, gol a 1,60, no gol, quotato 2,20. Occhio e orecchie anche all'altra sfida del girone dei giallorossi, all'Allianz c'è Bayern Monaco CSKA. L'1, il successo dei bavaresi, è quotato 1,25, l'X è a 6, il 2 invece è quotato 11. La notte di Champions offre anche uno stellare Barcellona-Paris Saint-Germain per il primato al Camp Nou. Si gioca alle 20:45, l'1, la vittoria del Barcellona, è quotata 1,50, l'X è a 4,25, il 2 invece, con il successo dei parigini, è quotato 6,25. Schalke 04 impegnato invece sul campo del Maribor, l'1, il successo degli sloveni, è quotato 4,25, l'X è a 3,85, il 2 invece, con il successo dei tedeschi, è quotato 1,75. Questa era l'ultima delle quote SNAI di oggi, noi ci risentiamo domani. Spot per noi. Tutti convocati. Ho legato Pardo alla sedia per altri 20 minuti. Tra 20 minuti ti do le chiavi, va bene? No, ma io sono consenziente. Sei consenziente? Sì, sono favorevole. Tra gli ma mi piace stare in studio, tutta un'altra cosa. Certo, si sente meglio quando c'ho il telefono. Ma è chiaro, la qualità audio è un'altra cosa quando la qualità audio. Perché... Ma qui tu sei proprio l'idea che mi hanno dato la sola con quel telefono lì. No, ma non io. Ormai c'è un partito politico. Lo so. Che sta diventando un... Una delle riforme di cui si discute in queste ore al Senato. Sì. Ma tra i nostri pirotecnici ascoltatori di tutti i convocati c'è anche Andrea Zaccaria, che nel corso del programma ci ha mandato una cosa. Senti. Buongiorno a tutti, eccoci qua con il consueto appuntamento 60 secondi di calcio. Seguitissima trasmissione su modulazione di frequenza 100.100. Ieri giornata di Champions League, in cui la Juventus è passata agli ottavi. Una partita che commentiamo con un gradito ospite, Luciano Moggi. Buongiorno Luciano. Buongiorno a tutti, buongiorno Giampiero. Luciano, una partita ieri che è apparsa un po' soporifera, insomma un po'... si è parlato addirittura di biscotto. Allora Giampiero, non parliamo di biscotto altrimenti mi arrabbio. La Juventus ha giocato la partita che doveva giocare. Noi dalla Juventus di biscotti non ne mangiamo, al limite qualche pastiglia. Se abbiamo bisogno del risultato chiamiamo direttamente gli arbitri, quindi non parliamo di biscotto. Certo Luciano, però insomma una partita che non è stata. Questo Andrea Zaccaria, nostro ascoltatore. È pieno d'artisti, poi tra i nostri ascoltatori. Senti, ma che fa Roma stasera? 3-1, tripletta di Totti, come dice Mr. James Palotta. James is not very scaramantic, you know. He tends to be absolutely. But you know, 3-1 tripletta di Totti è tanta roba, Beh, tripletta di Totti, sì. Ma sai, io credo che la Roma sia stata sfortunata sicuramente nell'evoluzione degli ultimi minuti fra CSKA e Manchester Bayern. Sì. Detto questo, gli infortuni secondo me restituiscono alla Roma una partita più che giocabile. Sì, e quindi alla fine è anche bello ed è giusto che possa essere così, no? Nel senso che te la giochi contro un City che non ha probabilmente i due giocatori migliori, comunque due dei tre giocatori migliori, te la giochi in casa, hai fatto un ottimo percorso fin qui, mi viene a dire comunque sarà un successo, non lo è ovviamente, allora per arrivare seconda, terza o quarta nel girone, quindi è ancora tutto da vedere. Una partita indicativa anche in prospettiva campionato. Però è bello, io penso che poi alla fine nella testa del tifoso c'è la voglia di confrontare e di confrontarsi con partite del genere, di affrontare notti come queste. E poi l'abbiamo detto anche quando c'è stato Roma-Barne, attenzione. Sì, sì, è no, vero, però, è vero, però la, differenza, la differenza è che Roma-Bayern, che comunque è stata un incidente, come ha detto Guardiola a fine partita, no? Nel senso è stata una partita chiaramente irripetibile, o comunque di quelle che capitano una volta ogni 10 anni. Roma-Bayern quella partita l'ha sbagliata proprio come approccio, l'ha giocata male come approccio, perché probabilmente in quel momento pensava di potersela giocare alla pari col Bayern. Io penso che già dalla gara di ritorno di Monaco di Baviera la Roma abbia capito che la sua dimensione internazionale, come dicono a Milano, non certo a testaccio, bisogna stare un po' schisci. Sì, sì, infatti stasera probabilmente vedremo un centrocampo con tre mediani. Carmero si dice a Roma, Stai Carmero. De Rossi, Keitana, Ngolan con Pjanic seduto. Sì, questa è un'ipotesi, chiaramente. De Rossi piace, vedremo anche dal punto di vista psicologico se avrà recuperato da una settimana. Mi piace se gli Aic e Gervinho, cioè se i due esterni offensivi fanno un lavoro in fase di ripiegamento come si deve, mi piace, nel senso che io credo che l'equilibrio, che questo totem del calcio moderno, non è un caso che sia il totem del calcio moderno, soprattutto quando affronti le grandi squadre. Quello che è mancato completamente contro il Bayern all'Olimpico è quando tu vai in difficoltà e non hai più il collegamento fra le parti, è quando ci sono i tuoi giocatori offensivi che non riescono a darti un minimo contributo in fase di ripiegamento. È chiaro che non puoi sfinire Gervinho in quel tipo di lavoro, perché Gervinho invece ti serve, però non sarai più lucido quando devi puntare la porta. Però insomma è chiaro che una mano la devono dare tutti, ed è una partita giocabile secondo me, anche tecnicamente è una partita giocabile. Se io guardo, insomma, Art non è che sia un fenomeno, o comunque non è che sia uno che non ha mai fatto papere nella vita, questo lo dico a proposito del momento di De Santis. La difesa, De Michelis è un giocatore stagionato, diciamo, no? Zabaleta mi piace molto, Clichy fra l'altro piaceva alla Roma ai tempi dell'Arsenal, Lampard è un giocatore che per un certo tipo di calcio è stato, non voglio dire rottamato perché è una leggenda, poi potrebbe essere la sua ultima Europartita, capito? Sì, insomma, quindi voglio dire è tutto possibile, e secondo me, ripeto, nella sfortuna che la Roma ha avuto nei minuti finali contro il CSKA, comunque per gli episodi, poi è chiaro che il gol l'ha preso, non è che non l'ha preso, però insomma in quella concatenazione degli eventi secondo me ha avuto poi però questo vantaggio oggettivo di affrontare il City senza due giocatori che fanno la differenza. Certamente, partita comunque, dicevo, indicativa secondo me anche in prospettiva campionato, perché ingiudicabile la Roma contro lo Sassuolo, troppo turnover di Garcia, colpevolmente l'abbiamo detto anche nei giorni scorsi. Probabilmente la Roma aveva ed ha, ovviamente oggi ha, ma aveva sabato questa partita, il Manchester City nella testa, quindi dopo la buona partita con l'Inter sono curioso anche di vedere realmente come è messa la Roma anche dal punto di vista fisico. Claudio Genova, buongiorno. Pronto, buongiorno a tutti. Riprendendo il discorso che facevano gli amici di Udine, io mi trovo nella stessa situazione più o meno, e voi sapete benissimo da tifoso del Genoa. Il problema è che la dimensione di queste squadre è questa, c'è poco da girarci intorno, anche perché, per due ragioni. La prima, io per carità mi sono goduto grandi giocatori a Genova e me li godo tuttora, grazie anche alle grandi intuizioni dei dirigenti, sia del Genoa ma anche dell'Udinese, la stessa cosa. Però quando un giocatore gli arriva la telefonata del procuratore che gli dice guarda che mi ha chiamato l'Inter e l'anno prossimo ti dà 4 milioni, che non può permettere certe cose, anche perché li dai a uno e poi gli altri cosa fanno? Questa è la cosa fondamentale, perché ancora di più del cartellino, quindi del fatto di monetizzare, che è evidente, c'è proprio il fatto che non riesci a tenerle a quelle cifre. Io penso anche al Torino, Cerci Immobile, ma mica è facile. Perché, guarda che a un livello più alto vale anche per il Napoli, ad esempio. Ma mica, ragazzi, ma mica è facile. Ma fa parte, pensate, lo capisco che è poco romantico, ma pensate alla vita di voi tutti, no? Di tutte le persone che hanno fatto un lavoro nella vita e che a un certo punto hanno dimostrato di essere particolarmente bravi, e ti arriva l'offerta da un altro, o ti arriva la possibilità di fare carriera, o ti danno un incarico più importante. Che fai? No, stai lì buono perché ti stanno simpatici i tuoi tre colleghi. È chiaro che cioè l'ambizione fa parte della vita di tutti, figurati dei calciatori che hanno una carriera breve, piena di soldi, però comunque breve. Il calciatore, ragazzi, non dimentichiamocelo, sono professionisti, stiamo parlando di gente che lo fa per mestiere, è uno che per tutta la vita, al di là del fatto che è un fortunato pazzesco eccetera, però se gli si rompe un ginocchio o c'ha un infortunio pesante può smettere domani, e comunque nel migliore delle ipotesi ha 15 anni di vita agonistica nei quali è abituato ad arraffare il più possibile, ma giustamente, sì. Legittimamente. Ma io, guarda, ho sempre difeso contro tutti la scelta di Eto'o quando andò a seppellirsi in quel posto in Russia sotto una montagna di dollari. Insomma, è un professionista, fa benissimo a fare un discorso di quel tipo. È che noi che chiamiamo questo gioco, siamo romantici, lo carichiamo di significati. Ecco, Di Natale è uno che ha scelto sicuramente la provincia, ha scelto Udine, ha rifiutato delle offerte straordinarie. Totti è un altro che sicuramente avrebbe potuto vincere di più se fosse andato in altri posti, ha fatto una scelta di vita. È chiaro che l'ha fatto in un club che comunque è un club importantissimo, è comunque una grande squadra, è la sua squadra, quindi non è che è rimasto, con tutto il rispetto, allo Scunthorpe o a Reading. Anche economiche, cioè, certo, io credo, sì, che non ci abbiano rimesso dei quattrini, Beh, io penso che Di Natale dei quattrini ce l'abbia rimessi, e forse anche Totti in prospettiva dei quattrini può averceli rimessi, perché se avesse avuto la stessa grandezza in un club con una dimensione come il Real Madrid o come il Barcellona, gli ingaggi sono per definizione più alti. Detto questo, la Roma ha fatto un grande sforzo negli anni, anche negli anni difficili dal punto di vista economico. per venire incontro, ma sappiamo bene anche che Totti è una parte anche commercialmente troppo importante della romanità e della Roma, no? Quindi è chiaro che avere Totti in squadra significa, come dice Liguori, poter vendere magliette pure in Australia, in qualsiasi bel mondo, anche l'aborigeno la maglia di Totti gliela vendi. Ciarramano, dica, pronto? Buongiorno. Linea 6, come va? Bene, buonasera a tutti. Sei carico? Paolo, sei tonico? Ma più o meno, sì, ecco, insomma. Poi sentirti mi carica sempre molto. Immagino. Senti, il City fa sì, così paura anche con quelle due assenze pesanti? Che cosa deve temere la Roma? Al di là del fatto che è una squadra che conosciamo tutti, anche grazie alle partite che vediamo su Fox, su Sky e su Mediaset. Ma deve secondo me temere il fatto che il City si giochi molto, direi tutto per certi versi, perché si potrebbe voltare pagina al City se dovessero andare male le cose in Europa. In patria è una squadra che ha cominciato a dimostrare a tutti che sa come si fa a vincere. Da Mancini in avanti Pellegrini si è inserito in quel solco, ma una terza eliminazione consecutiva al girone delle City sarebbe inaccettabile, soprattutto ai piani alti dell'azienda, che sono quelli dove, insomma, si prendono le decisioni che contano. Sì. Questo può essere un vantaggio ma anche uno svantaggio, perché ho avuto la sensazione che il City abbia giocato spesso molto bloccato certe partite, quelle più importanti, perché le sente ancora maledettamente. In questo senso, non avere un giocatore come Yaya Touré, che le partite più difficili di solito le ha sempre risolte per il City dai tempi della gestione Mancini, secondo me è un handicap non da poco. Ma esiste una spiegazione tecnica secondo te, Paolo, o è semplicemente una questione di feeling? No, la spiegazione tecnica esiste, forse anche tattica, o meglio tattica nel tecnico, per fare un gioco di parole. L'allenatore mi è sembrato in difficoltà sinceramente in alcune situazioni in campo internazionale. Secondo me gestì male la partita contro la Roma. Scusa, che vale anche per Mancini? No, Mancini secondo me ha avuto un merito, e non lo dico per campanilismo, per parlare dei meriti di un allenatore italiano. Mancini è quello che ha voltato pagina, Mancini è quello che ha reso una squadra che non aveva mai vinto da generazioni una squadra vincente, e voltare quella pagina è sempre più pesante. Lui l'ha voltata vincendo l'FA Cup e l'anno successivo il campionato. Pellegrini doveva fare il passaggio successivo, doveva fare uno step successivo. Gli investimenti sono stati fortissimi. La squadra di Pellegrini secondo me è molto più forte di quella che aveva a disposizione Mancini, eppure la differenza di rendimento in Europa non c'è stata. Secondo me chiederanno conto e chiederebbero conto i vertici del club a Pellegrini di un'altra E anche, Paolo, bisogna distinguere secondo me l'aspetto economico, dove il City ha speso forse più di tutti assieme al Paris Saint Germain in questi anni, con l'aspetto tecnico, nel senso che, per carità, ha comprato dei grandissimi giocatori, però ecco, per esempio De Michelis, insomma, non è uno su cui costruisci il tuo futuro dal punto di vista difensivo, tanto per fare un esempio. Ma De Michelis se l'ha voluto Pellegrini, sì, quindi sì, sì, certo, rientra chiaro nella categoria responsabilità di questo allenatore. De Michelis era il terzo difensore centrale, forse anche il quarto, l'Atletico Madrid non giocava quando l'ha chiamato Pellegrini, per farlo diventare spesso il titolare di una squadra con questo potenziale. È chiaro che se ti prendi certe responsabilità poi ne paghi le conseguenze se le cose vanno male. Si dice anche che però Pier, leggiamo oggi, potrebbe essere l'unico club al mondo in grado di prendere Messi, certo, di dare 200 milioni al Barcellona, 25 a Leo Messi, di portarselo a casa e magari di pigliare pure Guardiola, che è grande amico di Agüero, che ha molti estimatori, che potrebbe Big essere Stein, il più grande sponsor di Guardiola. Big Stein, naturalmente, potrebbe portarsi a casa, oltre a Messi, anche Guardiola, ma perché le potenzialità economiche le hanno. Quindi è chiaro che il City è una superpotenza del calcio europeo, che questa sera rischierebbe la terza eliminazione nella prima fase nelle ultime quattro edizioni. L'anno scorso finì fuori agli ottavi, quindi assolutamente, non è un grande cammino. Assolutamente. Io penso che alla fine, ripeto, il City ha questo stellone straordinario del finale della partita contro il Bayern, mi pare che in campionato si sia rimesso a posto. Però, sì, lo stellone è vero, ricorda anche il titolo vinto con Mancini contro il QPR, esatto. Però l'uomo dello stellone non c'è oggi, non c'è, Agüero. Esatto, il gol decisivo in tutte e due le occasioni lo fece Agüero e oggi è fuori. No, ma infatti io non lo dico perché non abbiate paura. Io penso che chiaramente la Roma gioca la partita più importante del suo 2014 probabilmente, però insomma se guardo queste due squadre penso al punto di partenza, penso al fatto che si gioca comunque a Roma e non a Manchester, che la Roma potrebbe passare con lo 0-0 anche se è un pensiero non da fare, che il City arriva senza gli Yaya Touré squalificato e senza Agüero. Beh, insomma, io penso che veramente il City rischia il Liverpool bis, ma anche più pesante, perché comunque il budget del City, Paolo, correggimi se sbaglio, è nettamente superiore a quello del Liverpool. Cioè, no, assolutamente. Se non passa il turno è una roba. Beh, sì, è tanta roba, e non credo che Pellegrini possa avere un gran futuro su quella panchina. Ti devo salutare, no? Sì, cioè, ieri Basilea ha giocato contro il Liverpool e vale un po' lo stesso principio. Ma secondo me al quadrato, cioè oggi la Roma ha la possibilità di ripetere in termini di punto di partenza in questo girone, ma ancora più, di punto di partenza in questo girone la Roma ha la possibilità, se ce la farà, di fare un'impresa eccezionale che nessuno si aspettava, dovuta anche onestamente ai demeriti di una squadra che poi si è suicidata contro il CSKA, quindi insomma, però voglio dire, se il CSKA è riuscito a batterla e la Roma invece ha fatto 4 punti e potevano essere 6, un merito ci sarà stato. Vi saluto, ciao Pierluigi. Ciao. Paolo, stai lì ancora un attimo, voglio farti sentire una cosa per parlare un po' di... No, non, niente Liverpool, va bene, parlo io con Paolo Saravano mentre saluto Pierluigi Pardo che si allontana. 800240024, abbiamo accennato al Liverpool, la grande notizia del martedì di Champions League, la grande notizia della Champions League fin qui è stata l'eliminazione del Liverpool in un girone che mai ti aspetti. Sì, anche se andando a scavare tra le pieghe del sorteggio e la forza delle squadre, tutto sommato il Liverpool ha pagato in Europa quelle che sono le sue difficoltà anche in campionato. È una squadra che non ha saputo rimpiazzare Suarez e soprattutto non ha saputo reinvestire i capitali entrati con la cessione di Suarez. La carta Balotelli fu una carta della disperazione nelle ultime ore del mercato, sinceramente non sembra abbiano pescato il jolly ad Anfield. Finita qui la storia di Balotelli a Liverpool secondo te? No, questo non lo so, adesso anche problemi fisici. Di certo la scommessa al momento non è stata vinta, anzi è stata persa. Rodgers è stato capace di legare alla causa del Liverpool, malgrado una forte volontà di andare via Suarez l'anno scorso, con grandi esiti. È stato il primo, adesso è infortunato e quindi ce lo stiamo dimenticando, ma è stato il primo a disciplinare il talento di Sturridge, giocatore tecnicamente straordinario, ma basta chiedere ai precedenti allenatori che ha avuto, da Villas-Boas in giù, molto molto anarchico, difficile da inserire in un compito tattico. In questo era stato bravissimo Rodgers, ha investito su se stesso credendosi capace di gestire Balotelli e forse anche di migliorarlo. Sinceramente diciamo che a scommessa metà persa, di questa partita la scommessa. Ma io ho sempre la sensazione che il Liverpool si sia infranto sullo scoglio del Chelsea e del Crystal Palace l'anno scorso con quell'occasione incredibile buttata alle ortiche di vincere il titolo dopo tutti quegli anni. Mentalmente sì, mentalmente questo Liverpool sì. Si è incartato su quello scoglio. Un'ultima cosa, leggo oggi che Vidic potrebbe dare l'addio all'Inter, guardando di questo asse Italia-Inghilterra che trasporta pacchi No, Balotelli a Liverpool, però di qui Vidic potrebbe già dare l'addio all'Inter, Evraico non benissimo nella Juventus e nella Roma, non parliamo di Torres, di SN. Il problema mi sembra anagrafico. Anagrafico? Eh sì, perché anagrafico è come conseguenza di un difficile momento dell'Italia a livello finanziario, del calcio italiano a livello finanziario, nel senso che i big che giocano in Inghilterra, che sono inglesi o comunque che sono passati dall'Inghilterra, finché sono tali restano lì. Poi quando vanno vicini alla pensione diventano obiettivi raggiungibili per un calcio come il nostro, che in questo momento economicamente non può, certo, non può competere. Avessimo avuto questi giocatori nel pieno delle loro facoltà, avremmo avuto sicuramente un altro rendimento, perché 4, 5, 6 anni fa i nomi che tu hai fatto erano giocatori assolutamente straordinari. Adesso sono un saldo e il saldo è sempre rischioso. Grazie Paolo Ciaravano, buon lavoro. A voi, buon proseguimento. Ciao Paolo Ciaravano. Fox Sport ci racconta il calcio della Premier League. Paolo Ciaravano, come sapete. Francesco Roma, buongiorno. Salve, buongiorno, salve. Chiamo da Roma. Ciao, salve. Ciao. Senti, alla luce proprio di quello che ha detto della crisi del calcio italiano e tutto ciò, ritornando al punto di Roma-Manchester, non credete che a livello di futuro della stagione societaria non convenga la Roma alla fine, non dico fare un biscotto, ma uscire dalla Champions per andare poi a giocarsene in Europa, ai livelli europei dell'Europa League, no, e forse andare a fondo sull'Europa League, anche perché abbiamo visto che ha preso un forte schiaffo col Bayern. Paolo, forse non lo so, no, Francesco, la partita di assolutamente no, la partita di stasera vale una dozzina di milioni di euro, cioè se stiamo parlando di un discorso economico, non c'è gara, non c'è partita. Se stiamo parlando di un discorso tecnico, allora a quel punto uno potrebbe dire, estremizzando, la Roma converrebbe uscire, non fare nemmeno l'Europa League e concentrarsi sul campionato. Estremizzando possiamo dire questo, ma l'idea di fare l'Europa League, quindi essere con l'Europa, avere l'impegno europeo magari da portare avanti fino a primavera, e questo impegno europeo nell'Europa minore, cioè nell'Europa League, a me sembra follia, per un discorso economico, tecnico, da qualunque punto di vista la si guardi, questo è il mio pensiero. Emilio Salerno, buongiorno. Buongiorno, senti, dicevo io non sono né giuventino né romanista, ma è importante superare la fase ai gironi. Poi non bisogna già partire battute quando riguarda i sorteggi, perché quelle sono due partite secche, allora sì, può succedere di tutto. Può succedere anche se può vincere, noi partiamo l'82, mi ricordo, quando abbiamo vinto i mondiali, però pur essendo questo, vabbè, in valore assoluto può essere vero, ma no, ma però se onestamente se prendi il Bayern Monaco o Real Madrid o il Chelsea, però sì. Non bisogna, te la giochi, però Real Madrid, Chelsea, Bayern, Barcellona e forse Paris Saint Germain, poi vediamo chi arriva primo o secondo tra il Barça e il Paris Saint Germain. Questa sera ricordiamo che il Paris Saint Germain ha 2 risultati su 3 a disposizione, vittoria e pareggio per chiudere con il primato nel girone. Poi è evidente che Borussia Dortmund, Porto e Monaco sono e devono essere alla portata della Juventus. Tutti convocati. Dunque torniamo, 800 24 00 24, abbiamo provato ad inquadrare la partita di stasera, quella che più ci interessa da vicino, cioè Roma-Manchester City. Intanto ripeto, questa mattina Pallotta è stato si è incontrato in Campidoglio con il sindaco, ha parlato anche dello stadio, si è detto di nuovo fiducioso, ha detto chi rallentava il voto, chi rallentava la situazione relativa allo stadio adesso non c'è più. Sono venuto qui per farmi un giro, non c'è nessun incontro, aveva anche detto le cose stanno procedendo nel modo giusto per lo stadio, questa rivoluzione capitolina andrà a velocizzare i lavori. Prima stavano rallentando e non riuscivamo a capire perché. Ora le cose dovrebbero andare in maniera molto più fluida. Tutte le persone che hanno rallentato questo procedimento non ci sono più. Quando ho sentito queste notizie da Boston sono rimasto entusiasta. Quello che è successo la scorsa settimana è una buona notizia per Roma, che non può essere solo corruzione, quindi il sindaco sta cercando di fare piazza pulita insieme alla magistratura. Queste le parole di Pallotta, che poi, ripeto, ha detto stasera vinciamo 3-1, tripletta di Totti. Non è scaramantico l'americano proprietario della Roma. Gino Firenze, buongiorno. Sì, buongiorno, come va? Tutto bene? Molto bene, lei? Bene, grazie. Senta, io ho 65 anni, non voglio parlare di Coppa dei Campioni, ma è da tempo che le volevo fare una domanda. Io mi ricordo nella mia adolescenza le squadre italiane giocavano tutte in un certo modo e questo certo modo portava dei risultati. Vedendo oggi che bene o male tutte le squadre in attacco hanno due o uno con due dietro, io le chiedo, ma è libero? Cioè, mettere due uomini a marcatura a uomo sugli eventuali due punte è un libero dietro, è il lavoro della spinta sulle fasce laterali. Un tempo lo facevano i cosiddetti mediani, se si ricorda, sì. Oggi invece i cosiddetti terzini devono necessariamente andare avanti e dietro sulle fasce e si stoppano tutte quante ed ecco che in difesa ci sono i famosi buchi perché sì. Il fuorigioco viene fatto in un modo o nell'altro. Ma tornare a quello che un tempo si chiamava metodo, se non sbaglio, sì. Non sarebbe una cosa fatta bene davanti a squadre spregiudicate e che però giocano in un certo modo? Cioè, lei dice un ritorno del calcio all'italiana? Chiamiamolo così perché il libero oggi come oggi, no? Ma io credo sarebbe. Guarda, Gino, secondo me sarebbe un modo un po' anacronistico di affrontare le cose. Tanto per di affrontare le cose e anche questa competizione si gioca in modo un po' diverso. E poi la grande rivoluzione, non so a quale epoca lei si riferisce, parlando della Coppa dei Campioni che fu, eccetera. A memoria mia, la grande rivoluzione è il momento in cui si è cominciato davvero a vincere in Europa, complice l'abbondanza di soldi, eccetera, eccetera. È stata la vera rivoluzione, è stato il Milan di Sacchi e degli olandesi. Da lì in poi siamo diventati una superpotenza europea con una squadra che aveva certamente straordinaria come interpreti, però che aveva rappresentato una rivoluzione culturale per il calcio italiano. Quindi credo che il metodo, il libero, eccetera, siano delle cose che appartengono ad un bel passato, ma al passato, insomma. Gaetano da Savona, buongiorno. Buongiorno, volevo solo aggiungere un punto di vista verso in riferimento alle vostre analisi sulle provinciali che non possono mantenere il grande campione o il campione che verrà fuori. Io aggiungerei anche questo, perché una provinciale ha un budget economico di un certo livello, potrebbe anche pagare il grande campione, però credo che destabilizzerebbe lo spogliatoio. Vedi l'esempio di Balotelli e Pagliabella. Ma no, ma Balotelli c'è Milan e l'Inter, e termino, Milan e l'Inter mi sembra che abbiano cambiato metodo di gestione del loro budget economico. Mi sembra che stia succedendo un po' quello che succede alle provinciali. Questa era la riflessione che volevo portare. Più che altro non hanno i soldi che avevano in passato, cioè cambiare modo di gestire il budget è un eufemismo, è un giro di parole, nel senso che non hanno più Milan e Inter il budget che avevano nel passato, quindi non possono più permettersi di fare mercato a un certo livello e adottano la politica dell'impatto zero, del low cost, battezzatela come volete, perché così era stato battezzato quantomeno il mercato dell'Inter, che avevamo anche elogiato, non dimentichiamocelo, io compreso, e non ho poi cambiato idea più di tanto. L'Inter ha fatto il mercato che poteva permettersi di fare ed è questo, non ha una politica salariale diversa rispetto al passato. E in questo senso sì, può valere per il Milan e per l'Inter il discorso che si può fare per altre squadre provinciali, lo diciamo per semplicità, che poi tali non sono, perché questa è una politica che vale anche per il Napoli, ad esempio. Il Napoli ha sempre avuto, negli anni di De Laurentiis, un monte salari contenuto, per questa ragione poi ha deciso di progressivamente di vendere i suoi giocatori migliori, Lavezzi e Cavani, eccetera, eccetera. In quel modo è riuscita, ovviamente stiamo parlando di un altro livello, a mantenere comunque uno standard elevato. È evidente che il giocatore che esplode, Perotti, faccio per dire, nel Genoa è costato nulla, al Genoa è stato un gran colpo, o Dybala per il Palermo, è evidente che quei giocatori, il Palermo da una parte e il Genoa dall'altra, se, andando così le cose, non potranno permettersi di trattenerli. Perché poi aumenti lo stipendio a un singolo giocatore, è chiaro che hai la fila degli altri giocatori davanti alla porta che bussano cassa. Pier Augusto Stagi, buongiorno. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Ciao, oggi stiamo aspettando la decisione dell'UCI sul caso Astana, che mi sembra giorno dopo giorno sempre più spinoso. Ma certo, la posizione soprattutto di Alexander Vinokurov, che è l'anello debole di tutta questa vicenda, è evidente. Vinokurov è una figura ingombrante, ha un passato a dire poco tormentato, sì, e condiziona in maniera evidente tutta la squadra, e condiziona in modo particolare i nostri due corridori più rappresentativi, in modo particolare Vincenzo Nibali, perché avere o meno la licenza di World Tour cambia notevolmente le cose per il nostro campione, perché non averla vorrebbe dire poi andare alla ricerca di una wild card, essere invitata dagli organizzatori più importanti, e devo dire che essere poi invitati, anche se tu sei l'ultimo vincitore del Tour de France, non è una cosa così scontata, anche perché sappiamo che i cugini francesi non vedono di buon occhio chi ha delle macchie sulla coscienza. Sì, soprattutto se fare i grandi in modo particolare con chi non è francese, perché sì, poi questo bisogna essere onesti, loro sono molto bravi con gli altri, molto più accondiscendenti con i propri corridori, ma in ogni caso la posizione è chiaramente imbarazzante, è davanti agli occhi di tutti, è sotto gli occhi di tutti. 5 positività, 3 nella squadra primavera, 2 nella squadra di Serie A. Vinokurov, che è il team manager, quindi il referente sportivo e politico, sì, di questa squadra Stato, che ha un passato imbarazzante e anche un presente, perché quello che in questi giorni viene fuori dalla Gazzetta dello Sport è chiaro, cioè di questo volevo parlare. No, perché in questi giorni l'uomo nero rimbalza da tutte le parti, alias Michele Ferrari o il dottor Mito, se lo vuoi chiamare in questa maniera, lo trovi nell'albergo della Astana, o addirittura come alcuni lo chiamano Pippo Baudo, poverino, se fossi nel Pippo Baudo vero direi di elegante. No, dottor Mito lo trovi nell'albergo della Astana, anche se ci sono verbali che dicono, cioè per quanto riguarda Nibali, mai parlato con questo tizio, mai parlato con lui, mai avuto rapporti, contatti, e questo mi sembra sia documentato da tutte le parti, no, ufficialmente. Però lo trovi nell'albergo della Astana, lo trovi in questa inchiesta che fa venire i brividi sulla Gazzetta dello Sport, Ferrari ispiratore di un sistema criminale, non solo doping, ma anche la gestione illecita dell'enorme quantità di denaro intorno al ciclismo, allo sport, al doping, eccetera eccetera, con l'ipotesi di scommesse, di gare truccate, di malaffare anche di questo tipo, lo trovi nei pressi di Schwarzer e di Carolina Kostner, lo trovi l'uomo nero un po' dappertutto. Per Augusto Stagi, stai lì, ho il traffico, poi chiudiamo questo discorso. Convocati. Dunque, per Augusto Stagi, la sentenza dovrebbe arrivare quando sulla Astana? Hai qualche idea di questo? Dovrebbe arrivare prima delle 18, così mi hanno riferito. Non sei molto ottimista sulla possibilità che la squadra di Nibali ottenga la licenza? Sai, in una situazione così è difficile essere ottimisti. Io penso però che alla fine lo stesso UCI cercherà in qualche maniera di salvare anche la propria immagine, perché comunque questa è una squadra, uno dei team più forti del mondo, uno dei più attrezzati a livello anche economici, e quindi potrebbe magari scegliere una via intermedia con, come ho avuto modo già di dire, magari chiedendo l'allontanamento di un paio di dirigenti, delle garanzie nella lotta al doping, probabilmente una multa salata che servirà non per rendere più felice l'Unione Ciclistica Internazionale, ma proprio per intensificare i controlli antidoping a sorpresa nel mondo del ciclismo, e non ultimo probabilmente anche una penalizzazione di qualche punto, diversi punti nel ranking di World Tour. Ricordiamo che poi alla fine della stagione avere una brutta classifica conta come certo, mercato, chiaro, cioè, non dico la retrocessione ma la licenza, quindi ritorniamo, quindi potrebbero darmi una, chiudere un mezz'occhio questa volta, metterli sul chi va là e dire ragazzi da oggi non si scherza più, chi sgarra poi alla fine certo. paga. E poi comunque rimane il discorso del dottor Mito che rimbalza da tutte le parti per Augusto Stagi. Albergo della certo. Stana, dicevamo, e ci sono le prove del fatto che fosse un frequentatore quantomeno di alcuni corridori che si muovono da quelle parti. E poi rimbalzo in questa inchiesta della procura di Padova che è terrificante. Quanto può sconvolgere il mondo del ciclismo? Una precisazione, Carlo, una precisazione. Sì, è chiaro la vicinanza del dottor Mito con diversi corridori della Stana negli anni passati. Al momento bisogna dire degli anni passati. Perché il faldone dei 550 pagine della Procura di Padova, del PM Benedetto Roberti, che è sul tavolo della Procura Antidoping del CONI, riguarda fino al 2011, e in quelle 550 pagine, bisogna essere onesti, non c'è un rigo che parli della questa fantomatica visita di Michele Ferrari al ritiro l'anno scorso della Stana a Montecatini. Uh-huh. Questo con tutto il rispetto, in realtà lunedì scorso, l'altro ieri, la Gazzetta dello Sport ha riportato questa cosa, probabilmente ha delle altre fonti, ha delle sue fonti che però non riguardano nel caso specifico il dossier del PM Roberti, questo va detto. Quindi non dico che non sia una cosa vera, anche se allo stato attuale, certo, uno potrebbe dire ci mancherebbe che lo confermasse, ma perlomeno un buon silenzio non fu mai scritto. Michele Ferrari stesso ha scritto apertamente sul suo sito che è pura invenzione, lui non si è mai presentato in nessun ritiro della Stana, che però in realtà diversi corridori della Stana negli anni scorsi si sono avvalsi delle cure tra virgolette del dottor Mito, questo è abbastanza ormai acclarato. Grazie Pier Augusto, ci sentiamo nei prossimi giorni. Grazie a te Carlo, buon pomeriggio a tutti. Anche perché mi sembra un personaggio di estrema attualità, no? Lo troviamo nel, ripeto, l'albergo della Stana, lo troviamo in questa gigantesca inchiesta secondo cui avrebbe costituito né più né meno che un'associazione a delinquere in piena regola, con i proventi derivanti con il fiume di denaro derivante dal doping. Leggo: denaro che viaggia indisturbato verso conti svizzeri, stipendi accreditati come rimborsi chilometrici, cioè non tassati, società costituite a Monte Carlo per trattare i diritti di immagine degli atleti, assicurare guadagni illeciti a corridori, squadre e manager. Un'associazione per delinquere, per innalzare il valore di mercato degli atleti. Gli inquirenti ipotizzano anche combina nelle corse e frodi sportive. Fate un po' voi. Poi leggo sempre sul dottor Mito, sul Corriere della Sera di oggi, il caso Carolina Kostner-Schwarzer. Ed eccoci al capitolo, scrive Gaia Piccardi. Ed eccoci al capitolo Ferrari. Schwarzer incontra il dottor Mito il 1 maggio 2010 in un camper posteggiato all'uscita autostradale di Verona. Carolina c'è e non si stupisce di nulla. Mi si presentò solo come Michele Ferrari. Non sapevo che era un medico, non pensai che le modalità dell'incontro fossero particolarmente strane. Ma come? Non pensai che le modalità dell'incontro fossero particolarmente strane. Salve, sono Michele Ferrari. Tu che sei una sportiva professionista, sai neanche chi è. In un camper parcheggiato al casello d'autostrada. Vabbè. Secondo la procura questo è falso. La Kostner in realtà ben sapeva che Schwarzer aveva frequentato un soggetto inibito e che quindi aveva commesso una violazione che lei, come tesserata, aveva l'obbligo di denunciare. L'ho messa denuncia aggravata dal fatto che Carolina appartiene alla polizia penitenziaria. Rimbalza da tutte le parti in questi giorni il dottor Mito. Romolo Ravenna, buongiorno. Buongiorno, intanto grazie per essere stato convocato. Grazie a lei. Vi devo fare i complimenti perché vi seguo quando posso e quindi siete veramente molto bravi. Grazie. Io volevo solo telefonare a proposito della partita di ieri sera della Juventus e più in generale di Allegri. Direi semplicemente questo, che adesso ormai tutti montano sul carro dei vincitori, quando appena 3-4 mesi fa, insomma, le immagini, i cori erano tutti contro Allegri. Ecco, ricordiamoci che comunque ieri sera, come con l'Atalanta e in altre occasioni, Buffon ha salvato la partita fin dall'inizio. Beh, Buffon ha fatto il Buffon sui primi due tiri pericolosi della, e sono stati anche gli unici della Atletico. Beh, ma comunque l'Atalanta ha parato un rigore. Così beh, ma certo, fa quel mestiere lì, fa il portiere della Juventus ed è uno buono. Quindi che sia un uomo fortunato, Allegri sicuramente. Ma è anche sì, bravo, è anche bravo. Ma su questo io no, sta facendo sentire, guarda, quindi... No, va bene, ma Romolo fa benissimo a tenersi il suo pensiero che ha argomentato, ma Allegri è anche bravo, secondo me sta facendo la sua miglior stagione da allenatore quest'anno, perché l'ho detto molte volte, ha ereditato una squadra che ha vinto molto con Conte, è stato bravo nel non intervenire con la mazza subito, distruggendo tutto per poi costruire una Juventus a sua immagine e somiglianza. Lo ha fatto con pazienza, lo ha fatto nell'occasione più difficile, che era la partita con l'Olympiacos in casa, in cui la Juventus si giocava tutto, e adesso la Juventus, sono d'accordo con quelli che dicono, e l'abbiamo fatto anche prima con Pardo, con Crosetti eccetera, è comunque una squadra in crescita, la Juventus è una squadra in crescita anche sul fronte europeo. Domenico Terni, poi andiamo a casa, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. Giulianova, provincia di Teramo. Giulianova, leggo Terni. No, niente, io devo intervenire per la Champion. No, la domanda, ma secondo lei, diciamo, la Roma punta allo scudetto o la Champion? Secondo me allo scudetto. Cioè, se dobbiamo proprio metterla così brutalmente, punta allo scudetto. È chiaro però che... E allora perché sabato, venerdì, quando ha giocato, ha perso due punti schivando le serre? Perché a questo punto sei lì, in questo girone difficilissimo, sei lì e hai una partita stasera in cui ti giochi la vita, te la giochi, no? Stasera va bene, ma tu con il Sassuolo metti la formazione migliore e vinci. Ho capito, io sono d'accordo, infatti c'è stato troppo turnover di Garcia con il Sassuolo, però io posso capire che la Roma, Champions League non è l'obiettivo primario, è un girone difficilissimo. Nessuno le chiede la luna dal punto di vista della partecipazione alla Champions League, però sei lì, la partita vale un sacco di soldi, 12, 13, 14 milioni di euro, vale una, insomma, vale gli ottavi di Champions League. Io dico che peccato ma non mortale quello di Garcia contro il Sassuolo, poi vediamo come va stasera, domani ne parliamo. Franco Piantanini, il nostro autore, Gianmarco Ferronato in regia, Daniele Buonamici in redazione, ciao a tutti. Ricordo ancora gli applausi, li sento ancora nelle orecchie e me li porterò dietro per tutta la vita. Ricordo una sera, levai l'accappatoio e cascò il mondo, me l'ho scordato i calzoncini. Mi ricordo tutti i KO, tutti i ganci, tutti i jab, e il sistema prigione per fare una bella cura dimagrante. La mia non è stata una vita squallida. Anch'io ho avuto, e mi farebbe piacere sentirmi applaudire quando recito come fate con Laurence Oliver quando recita Shakespeare. Un cavallo, il mio regno per un cavallo, sono 6 mesi che non ne becco uno. Ma io non sono Oliver, anche se mi farebbe piacere. E poi lo vorrei vedere sul quadrato recitare se con Sugar si misurasse chissà quante ne pigliasse. Per cui datemi un'arena, già che il toro si scatena, perché oltre al pugilato sono attore raffinato. Questo è spettacolo.